Giove, converso in un bove, la bella mia stella mi intendo rovir. Allarme a battaglia, allarme, allarme a battaglia. Tu svelgo e cimiero di brando guerriero, adornati il dorso. Te dammi soccorso, te dammi, te dammi, te dammi soccorso. Scaglio, orror di scaglio, un gemello, un gemello in faccia.